edizione. 16 minuti 36 secondi di questo venerdì, ancora buona giornata, buon venerdì da Anna Migliorati. Cominciamo con prima edizione, cominciamo però prima del sguardo consueto ai quotidiani a guardare invece nelle sale cinematografiche. Perché? Perché oggi esce un film che già sta facendo discutere, destinato a far discutere, è il film Diaz, che racconta la storia del G8 di Genova del 2001, il Blitz appunto nella scuola Diaz. Uscirà oggi nelle sale senza divieto ai minori di 14 anni come invece si pensava, e non solo, le copie precedentemente annunciate in 200 sono salite invece, visto il grande interesse nelle anticipazioni in giro per l'Italia, a 240 copie. Un film che si annuncia davvero un caso, e allora noi a prima edizione vi abbiamo già fatto sentire un'intervista al regista, ora vi facciamo invece ascoltare quello che da oggi sentirete nelle sale. 300.000 manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato. Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano? E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono. Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì? Gas! Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io non devo andarmene da sto posto di merda. Per dormire stanotte. Alla Diaz, c'è ancora posto. Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc? Ci hanno lanciato di tutto. Gli davano 4, sono solo 4. E anche assassini e assassini. Squadre 2, 4, 6. Allinearsi alla mia destra. Io i miei non li tengo più. Questo quello che sentirete nelle sale. Andare a vedere Diaz è un dovere civile. Leggiamo dalla Stampa di Torino questa mattina. Antonio Scurati, il film di Daniele Vicari sulle violenze perpetrate da alcuni reparti della polizia durante il G8 di Genova del luglio 2001, non sarà una visione piacevole, non sarà una visione divertente, non sarà una visione conciliante, sarà in compenso un'esperienza memorabile. È solo uno dei tanti interventi che troverete oggi sui quotidiani, il dibattito aperto, il film da oggi è in sala. E allora sui quotidiani restiamo, perché come sempre diamo uno sguardo a quelli che sono i temi scelti quest'oggi per le prime pagine. Temi che sono essenzialmente due: la Lega ancora con le nuove indagini e i PM che indagano e le espulsioni decise ieri dal Consiglio federale, dall'altra parte l'economia con l'asta ieri dei BTP italiani che non è andata esattamente come si sperava, e dall'altra parte la lite sugli esodati, anche perché oggi ci saranno in piazza i sindacati CGIL e CISL e UIL con la manifestazione unitaria a Roma. Allora, ecco le scelte di alcuni quotidiani in edicola. La Repubblica, l'apertura è sulla Lega, i PM indagano su Calderoli, cacciato anche Belsito, il senatur dice restituirò il denaro, il Roccio voleva comprare una banca, espulsa Rosi Mauro, soldi ai partiti, legge firmata Alfano, Bersani e Casini. I fronti politici e giudiziari della vicenda che aprono la prima pagina della Repubblica. Vince Maroni, via Rosi Mauro, così la Stampa di Torino, espulsa dalla Lega con Belsito, ha vinto il rancore. Il sogno svanito del federalismo, l'analisi questa mattina della Stampa, una parabola di 20 anni di speranze e ora anche delusioni. Il Messaggero, resa dei conti nella Lega, espulsi Rosi Mauro e Belsito, ma il partito salva Renzo Bossi, la senatrice non lascia il Parlamento. Trento. Accertamenti dei PM scattati anche su Calderoli. Questa è l'apertura del Messaggero, che in grande evidenza mette anche l'altra inchiesta della quale abbiamo parlato anche noi poco fa, GR24, la nuova inchiesta su Vendola. Indagato anche un vescovo, un altro avviso di garanzia al governatore pugliese con contestati i reati di peculato, abuso d'ufficio e falso. C'è da aggiungere, ve l'abbiamo detto poco fa in prima edizione, che nella notte nel frattempo però sono scattate altre manette per invece un assessore provinciale leghista a Piacenza per una vicenda anche qui di corruzione e di fotovoltaico. E allora, proprio a proposito di corruzione, sempre sulla Repubblica, il piano della Severino, braccio di ferro sulle intercettazioni, ecco il piano è pronto. Possiamo battezzare la fase con altre parole e non evocare precedenti storici troppo impegnativi, questione morale Tangentopoli e mani pulite, ma ecco che la Severino sta preparando il suo piano. Massimo Giannini sulla Repubblica. Notizia questa che trovate in evidenza sulla prima pagina anche sul Sole 24 Ore: il piano Severino, sanzioni più severe contro la corruzione, la concussione resta ma perde un pezzo. Questo quanto conterrebbe appunto il piano del ministro della giustizia, che ha inviato ai partiti di maggioranza i testi su responsabilità civile dei giudici, intercettazioni e sull'anticorruzione, leggiamo dal Sole 24 Ore, che confluirà in un emendamento al DDL all'esame della Camera da presentare martedì prossimo, e quindi la stretta ormai ci sarebbe. Sole 24 Ore che titola invece sulle questioni economiche: salgono i tassi BTP, cala lo spread, in asta i rendimenti a tre anni al 3,89%, un nuovo record da gennaio. E ci ricorda anche il Sole 24 Ore, intanto però dalla BCE arriva l'allarme crescita, l'espansione della liquidità non fa aumentare il credito. Così il Sole 24 Ore a centropagina, la presidente di Confindustria Marcegaglia, che ieri ha incontrato Alfano, sulla flessibilità in entrata, obiettivi condivisi, sul lavoro testo da migliorare. E il Corriere della Sera, anche qui l'apertura dedicata ai mercati e alle pressioni sui titoli di Stato sotto pressione, questo è il titolo oggi del Corriere della Sera, e anche qui, come sul Sole 24 Ore, l'allarme della Banca Centrale Europea sul lavoro. Gli esodati, aggiunge il Sole 24 Ore, sono 65.000, la CGIL numeri sbagliati, oggi dicevamo ci sarà la manifestazione unitaria a Roma. E a centropagina invece sul Corriere della Sera la vicenda Lega di cui abbiamo parlato prima, via Rosi Mauro, salvo Bossi Junior, l'intercettazione di il pezzo a firma di Fiorenza Starzanini sul Corriere della Sera, l'ex ministro chiedeva cosa dico ai giornalisti, cominciano a emergere altre nuove intercettazioni, le troverete quest'oggi su diversi quotidiani per quanto riguarda la vicenda Lega. Queste le due notizie che hanno maggiore evidenza, poi ci sono naturalmente altre questioni affrontate quest'oggi dai giornali, a cominciare dal calcio scommesse, le accuse a un presidente. Stiamo sempre a fondo pagina invece del Corriere della Sera, dal patron del Siena a Mauri della Lazio agli arbitri, i verbali di Gervasoni, ora c'è anche il nome di un presidente nell'inchiesta sul calcio scommesse della procura di Cremona, a chiamare in causa il patron del Siena è il pentito principale dell'inchiesta, appunto Carlo Gervasoni, che a sua volta riporta la testimonianza di una terza persona. E aggiungiamo invece dal fondo pagina della Repubblica, le accuse sono per Lazio, Siena e Genoa. E oggi si siederà il super pentito davanti al procuratore federale Stefano Palazzi e vedremo cosa ancora racconterà. Altre questioni, allora, le immagini le trovate sul Corriere della Sera ma anche sul Messaggero di quest'oggi. Allora, proprio da qui andiamo a leggere la rissa al Colosseo tra centurioni e i vigili urbani. Quei centurioni barricati nel Colosseo non sono né memoria né folklore, ma solo il volto del cattivo gusto che offende il decoro e impone un'immagine vecchia, becera e inveritera della romanità. Ma la guerra scoppiata in questi giorni davanti al più grande monumento della capitale del paese dimostra che peggio dell'abuso c'è solo l'abuso travestito da pretesa. Così durissimo il Messaggero quest'oggi in quella che è già stata ribattezzata la guerra dei centurioni, che vorrebbero la legittimità, il patentino, l'esclusività per stare davanti al Colosseo e farsi fotografare coi turisti. Altre segnalazioni dalla prima pagina della Repubblica, anche questo ve l'abbiamo già raccontato in GR24, petrolio in mare, la paura a Taranto, 20 tonnellate perse da una nave, la Repubblica oggi scrive, sono carrette da fermare, se è vero che il mare copre il 70% del pianeta ed è fondamentale per l'equilibrio ecologico e per la vita dell'uomo, dovremmo preoccuparci di difenderlo meglio, petrolio in mare, paura a Taranto, così questa mattina su la Repubblica. Allora, facciamo una piccola pausa prima di qualche altra segnalazione dai quotidiani, perché come sempre vogliamo anche raccontarvi altro. E vi raccontiamo questa mattina una notizia che per la verità non è una grossissima novità, cioè che l'Italia è ancora una volta maglia nera in Europa per la giustizia lenta. Nel 2011 quasi 8 milioni e mezzo sono stati pagati ai cittadini come risarcimenti per la violazione del diritto di ragionevole durata dei processi. Davanti a noi ci sono anche Turchia e Russia. E allora Raffaella Calandra ha intervistato Paolo Accardo, che è membro italiano al Consiglio d'Europa. Purtroppo questo è un problema che si protrae da alcuni anni. Le cause dell'eccessiva durata dei processi sono state analizzate e sono state anche prese misure. Forse sono state prese un po' in ritardo e ancora le ricadute non sono sufficienti. Anche se c'è stata una diminuzione degli input nelle statistiche, no, dei procedimenti. Si segnala da una parte appunto un record di sentenze inapplicate. Dall'altra parte l'Italia è al terzo posto dopo Turchia e Russia per risarcimenti ai cittadini per la violazione dei diritti. Il lato della prevenzione è quello semmai un po' carente per quanto riguarda questo aspetto dell'eccessiva durata. E grazie a Raffaella Calandra. Pochi secondi ancora, ma per una segnalazione dalla prima pagina del Messaggero. Avete mai pensato di andare al cinema con carrozzina e bebè? Ebbene, a Roma, pur in un periodo in cui, l'abbiamo detto più volte, il cinema non vive proprio il periodo migliore in quanto ad incassi, a fare grandi incassi è la sala con bebè e passeggino. Succede il giovedì mattina al The Space Moderno. I mini spettatori non pagano, ma sono i benvenuti alla proiezione di prima visione. Si va con passeggini, con bebè anche piccolissimi, e una visione per le mamme, tutti in sala con bebè e passeggino. Ebbene, il cinema fa grandi incassi. Così questa segnalazione dal Messaggero, a chiudere lo sguardo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sempre alle 8.20 poi Alessandro Milan. Noi invece facciamo una piccola pausa e riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Siamo alla prima edizione di Italia in controluce per quest'oggi 13 aprile. Vi ricordo in studio Daniele Biacchese. Soltanto pochi giorni fa Italia in controluce aveva realizzato un lungo reportage sulla situazione generale della sicurezza nelle carceri, lo aveva fatto per noi Maria Luisa Pezzali. Oggi invece entriamo proprio in un penitenziario, quello di Rebibbia, con Daniela Binella. Lo sappiamo quello che dobbiamo fare, andare avanti, ma noi speriamo che ci abbiamo un'altra possibilità per rimediarci, per i nostri figli, magari noi perché siamo mamme. Siamo nel nido del carcere femminile di Rebibbia, un reparto che si chiama nido perché qui le detenute scontano la pena tenendo con sé anche in cella i loro figli piccoli, fino a quando i bambini non compiono l'età di 3 anni. Ma tutte le detenute del nido vorrebbero ottenere gli arresti domiciliari, come avete sentito nel dialogo fra una rom italiana e la direttrice del carcere, Lucia Zainaghi. Adesso con una poliziotta andiamo a visitare tutto il nido carcerario, dove nelle celle ci sono anche i bambini. Se vogliamo andare a vedere, sì, magari. Andiamo. Sì. Sono 4 stanze, piccolino, sì, abbiamo una capienza di 17 persone. Queste sono le stanze un pochino più grandi. Purtroppo dobbiamo aggiungere anche qualche volta i letti perché aumentano al momento, insomma, non è che riusciamo. Incinte sono al reparto infermeria perché non è che possono stare qui se non hanno bambini. Al momento che poi vanno all'ospedale, partoriscono, poi vengono all'interno del nido. Si vengono curate, sono infermeria. Partoriscono in ospedale? Sì, con la scorta, però sì, tutto controllato, insomma, ecco, non è che per il momento è così. E ci sono tensioni tra donne? Che no, la maggior parte sono tutte rom, per cui sì, si conoscono tra di loro, ma non è che ci sia allarmismo, nel senso cattiveria, no? Anche perché poi i bambini e tra di loro fanno conoscenza, per cui sì, si cerca di essere uniti, almeno per i bambini. Crescono in un ambiente molto tranquillo. Questa è la cucina per i bimbi, ci abbiamo una cuoca sempre detenuta che fa solamente il vitto per i bambini, dettato da un pediatra che abbiamo all'interno. Al momento che si chiama, viene una volta a settimana, due a settimana, per controllare la salute dei bambini. E la cuoca che si presta a questo riceve quindi un salario? Sì, sì, un salario viene pagata per delle ore. Quindi può trovare... È una cuoca effettiva, sì, una cuoca effettiva che poi viene riconosciuta in base a quanto tempo lavora, tutto quanto viene riconosciuta come cuoca, per un domani per l'esterno. Abbiamo altre due stanze che sono simili a quelle che abbiamo visto. Qui abbiamo una stanza che è adibita, diciamo, un po' alla cucina, un po' a bagnetto per i bambini, che c'è una vasca. Ecco, andiamo incontro per le mamme, per la lavatrice, per cucinarsi quello che vogliono. E più abbiamo un angolo solamente per i bambini, con il fasciatoio, con la doccia al momento. Avete sentito le voci all'interno del carcere di Rebibbia a Roma, Italia in controluce. Torniamo oggi con Scuola in controluce di Piera Ceci alle 13.30. E alle 6.39 minuti torniamo con la seconda parte di Prima Edizione, con i nostri approfondimenti sui temi della giornata di oggi. Cominciamo col dire che è quasi davvero un bollettino il fronte giudiziario di questa mattina. Noi cominciamo con le inchieste che riguardano il governatore della Puglia, Nichi Vendola, indagato, come avete sentito anche in GR24, in una per un'altra vicenda, secondo avviso di garanzia in due giorni per lui. Ma noi facciamo ancora un passo indietro e parliamo ancora della prima vicenda in cui è indagato, quella cui avrebbe favorito il medico Paolo Sardelli nel concorso per primario nel reparto di chirurgia toracica al San Paolo di Bari. Secondo l'ex direttore generale dell'ASL di Bari, Lea Cosentino, Sardelli avrebbe partecipato e vinto il concorso dopo che il governatore pugliese riaprì i termini per l'iscrizione. Lui sostiene che fu invece colpa della stessa Cosentino. Lo intervistato per noi Paolo Panceri. Il concorso l'ha riaperto la Cosentino ai sensi di legge, perché io non avevo presentato la domanda, non l'avevo presentata, perché non mi sarei mai portata a dirigere una struttura fatiscente per un'utenza che sarebbe stata fortemente penalizzata. Gli ospedali devono essere strutture dove l'ammalato sta come un principe. Quindi è la Cosentino che ha riaperto i termini, non Vendola? Ma certo, scusi, è il direttore generale, e sul bando di concorso c'è scritto il direttore generale ha la facoltà in qualsiasi momento di revocare il concorso o di riaprirne i termini dando motivazioni. Il concorso fu riaperto, fu trasmesso al BUR dal direttore generale Cosentino, che è il bollettino unico regionale, la richiesta di riapertura, motivandola che c'erano solo 3 candidati, e dopo averla motivata fu apposto sulla Gazzetta Ufficiale. È pieno in Italia di riaperture di concorsi ed è previsto dalla legge per i concorsi di primario e di assistente, per tutto si possono dire, e tutto è stato fatto a norma di legge. Questa cosa non l'ha fatta Nichi Vendola, l'ha fatta la Cosentino, e quando la Cosentino la riaprì, perché io non avevo presentato domanda e lei riteneva che i candidati, quei 3 che c'erano, erano troppo una rosa troppo esigua. Adesso lei come intende muoversi? Adesso, prima di tutto, io devo vedere tutto quello che è stato scritto. Io non sono indagato, io sono semplicemente danneggiato moralmente, credo, in questa storia. Il mio avvocato verificherà se ci sono gli estremi perché io possa ritenere di essere stato diffamato, ma non posso farlo per ora perché tutto quello che ho saputo è dai giornali. Ho avuto almeno 400 email e sms da tutti i pazienti che mi dicono vada avanti, non molli. Così l'autodifesa del medico Paolo Sardelli. C'è un'altra vicenda che però è esplosa questa mattina e che riguarda invece Piacenza, dove all'alba sono scattate le manette per un assessore leghista, notizia proprio di queste ore, e allora ce la racconta Valeria De Rosa. Buongiorno Anna, a te i nostri ascoltatori. Allora, si tratta di Davide Allegri, ex assessore leghista alla protezione civile e all'ambiente della provincia di Piacenza, e già già assessore all'urbanistica del comune di Cortemaggiore, che è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Piacenza per corruzione e concussione. La vicenda ha a che fare con autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Le indagini erano cominciate 2 anni fa. L'ex assessore provinciale era già stato iscritto nel registro degli indagati appunto per concussione ed abuso in atti d'ufficio nell'ambito appunto della gestione di alcuni impianti, un atto che risale a oltre un anno fa e dopo il quale Allegri si era dimesso da assessore comunale a Cortemaggiore. Precedentemente si era dimesso da assessore provinciale per motivi personali, o così lui aveva detto. Una vicenda che in questo caso sembra riguardare più il singolo che non la Lega nel suo complesso, anche se qualche giorno prima dell'iscrizione di Allegri nel registro degli indagati era arrivato un plico alla Procura della Repubblica a Piacenza contenente registrazioni telefoniche fra esponenti leghisti, fotocopie di richieste di rimborso spese e tutto un memoriale riguardante l'installazione di impianti fotovoltaici nel Piacentino. Ed è tutto per il momento. Tant'è che si parlò di Corvo, grazie. Sì. Grazie Valeria De Rosa. Ultimo tassello, anche questo ve l'abbiamo dato in GR24, ve lo ricordiamo ancora, c'è bufera anche in un'altra città per un'altra inchiesta, ed è Imperia, dove ieri sera è iniziato un consiglio comunale sulla vicenda del porto cittadino oggetto di una maxi inchiesta giudiziaria, ricorderete, coinvolto tra l'altro l'ex ministro Scajola. Ebbene, sia maggioranza che opposizione chiedono al sindaco Paolo Strescino, ex AN, di dimettersi. Lui ha fatto un lungo discorso, ha detto che non vuole dimettersi, e allora da ieri sera il consiglio comunale è in corso a oltranza per convincerlo a lasciare. Vi racconteremo nella giornata cosa succederà. Voltiamo ancora una volta pagina per parlare d'altro, di altro che succederà in questa giornata, in questo venerdì. Ci saranno anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente del Consiglio Mario Monti agli Stati Generali del Volontariato della Protezione Civile. Si apre a Roma con oltre 230 delegati delle organizzazioni nazionali del volontariato, una galassia cruciale per l'Italia. E allora io saluto questa mattina il presidente della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, Simone Andreotti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo col dire che siete tantissimi. Quanti siano in Italia i volontari di Protezione Civile? Ma siamo arrivati circa a 1 milione di volontari. È un fenomeno in crescita che negli ultimi 10 anni non si è mai fermato. Dalle grandi città ai piccoli comuni crescono sia le grandi associazioni nazionali che tante associazioni locali e gruppi comunali. Veramente è un fenomeno importante, non solo per le capacità che esprimono, purtroppo drammaticamente la cronaca e la fragilità del nostro territorio ci costringono ad assistere a emergenze sempre più costanti per calamità naturali, e il volontariato è sempre in prima linea a portare la solidarietà al paese, ma sono anche spesso uno strumento d'aggregazione importante e unico. Pensa ai piccoli comuni, dove spesso il gruppo di protezione civile è quel luogo dove i cittadini, l'unico luogo dove i cittadini non solo riscoprono l'identità e, come dire, l'identità del proprio comune, della propria comunità, ma diventa anche l'unico luogo dove, alternativa all'individualismo, ma dove mettere in moto energie positive per il proprio territorio. Quindi veramente e l'impegno davvero per ripartire. Prima edizione. Simone Andreotti, presidente della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile. 1 milione di volontari di protezione civile in Italia, 4.000 organizzazioni, oggi vi riunirete a Roma. Quali saranno le vostre richieste, le vostre istanze? Ma le richieste principali sono che questo volontariato è una parte positiva del paese e quindi va supportato e tutelato per continuare a crescere. Soprattutto deve essere sempre più garantito quello che è la nostra forza, cioè l'autonomia di ogni associazione, di essere considerato un soggetto autonomo, un soggetto con cui dialogare, non, come dire, un fatto organizzativo che gli enti devono organizzare a seconda delle necessità, perché questo permette al volontariato di coniugare la capacità operativa, anche quella capacità di idee, di spunti, ma anche di controllo delle istituzioni, anche di critica costruttiva al sistema. Questo ancora purtroppo in molte parti d'Italia, in alcune parti almeno, non c'è. Ci sono regolamenti regionali che stringono il volontariato ad essere quasi, come dire, un esercito subalterno da utilizzare. Questa è una cosa grave che limita gli effetti. Pensiamo semplicemente che in molte zone d'Italia non è permesso di utilizzare la propria divisa, i propri colori, i propri emblemi identitari dell'associazione, e si è obbligati a usare una manodopera gratuita, insomma. Si è parlato tanto di tagli alla protezione civile e ai finanziamenti. Anche il volontariato ne è risentito? sicuramente anche il volontariato ne risente, però questo momento di crisi noi crediamo debba essere usato come un'opportunità. I soldi sono meno, bisogna soprattutto adesso, e questa sarà la richiesta degli stati generali, puntare a spenderli meglio, perché gli sprechi sono inammissibili, quindi puntare sulla priorità, su progetti di qualità e spenderli in assoluta trasparenza. Il volontariato vuole essere responsabile dei soldi che prende, si deve sapere che un'associazione l'ha presi, perché questo innesca un meccanismo virtuoso di competizione, una trasparenza che credo sia chiesta dai cittadini, se oggi è quanto mai necessaria, a maggior ragione perché i fondi sono pochi. E perché parliamo di volontari? E perché ovviamente parliamo di volontari, e quindi tutto il massimo rispetto. Allora, oggi vi riunite, noi come Radio 24 naturalmente continueremo a seguirvi e a raccontare quello che fate e fate ogni giorno. Grazie al Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato per la Protezione Civile per essere stato con noi, Simone Andreotti. Grazie, buona giornata. Anche questo sarà un tema della giornata, così come lo sarà, ve l'abbiamo raccontato, la crisi internazionale che è davvero di forte tensione in queste ore. Allora, ancora un'altra anticipazione prima di parlarne in GR24, Katia Caramelli. Sì, buongiorno. Il lancio è avvenuto nella notte italiana. Il razzo, secondo fonti della Corea del Sud, avrebbe volato per 1 o 2 minuti prima di esplodere in aria, e ora si cercano i frammenti in mare. La Corea del Nord prima ha negato, poi ha ammesso, sottolineando però che si è trattato solo del tentativo fallito di mettere in orbita un satellite per l'osservazione terrestre. Secondo Seul, invece, si è trattato del test di un missile balistico, missile, aggiungono fonti della difesa americana, con una portata da 6.000 a 9.000 chilometri. In una nota, la reazione della Casa Bianca, che parla di atto provocatorio che minaccia la sicurezza della regione, e anche i paesi del G8 riuniti a Washington hanno condannato il lancio del razzo, annunciando che contano di prendere misure appropriate nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, già convocato per questo pomeriggio ora italiana. E per il momento è tutto. Grazie per il momento, perché naturalmente tra poco ancora gli aggiornamenti di questa e di tutte le altre notizie. Avete sentito moltissime le novità di questa mattina con GR24. Intanto buon venerdì, buon fine settimana da Anna Migliorati, Peter Bescapè, Alessandro Longoni, tutti pronti come sempre qui da lunedì per ricominciare a raccontarvi questa prima mattina con Prima Edizione. Nel frattempo buona giornata, ci risentiamo tra poco con GR24.